chiuso, otturato, sarà il fumo che respiro, temporeggio, poi riprendo, ormai sconfitto dal difetto, con la faccia pesantita di inespressive sopra volti di catrame. Chiodo fisso, pronto a tutto per mostrarsi.